le diaspore in giro per il mondo, le comunità diasporiche che erano fuori dall'Egitto, dalla Libia, dalla Tunisia, erano quelli che si nutrivano poi, che probabilmente hanno anche più accesso alla comunicazione, ai media digitali, e si nutrivano di queste, si informavano attraverso questa comunicazione che riusciva a fluire fuori dai paesi d'origine per poi far circolare quell'informazione e farla ritornare dentro, mobilitando le persone che erano lì. Cioè, bisogna viverla, secondo me, bisogna immaginarla come appunto una mediasfera, un ecosistema mediale abbastanza complesso, dove il flusso di comunicazioni era notevolmente amplificato rispetto a movimenti sociali del passato che avevano molti meno mezzi di comunicazione a disposizione. Se guardiamo, potremmo anche guardare o scrivere una storia dei movimenti sociali attraverso i media che li hanno rappresentati. E se arrivassimo fino al 2011, vedremmo, e se potessimo fare una mappa del mappare come circola l'informazione, la comunicazione di questi movimenti in queste situazioni, vedremmo che nel 2011 il flusso di comunicazione è stato incredibilmente più alto. Quello qualcosa ha sicuramente influenzato, ha condizionato, è stato anche capace di imporre una contronarrazione all'agenda dei media, che alla fine finivano per mostrare quegli stessi video che in alcuni casi che erano stati girati dalle persone nelle strade.